suona per me, solo per me, ma i geni. So che il tuo cuore non vuol parlare d'amore. Sono folle di te, oh my geni, sol per te vivrò, geni guitar, suona per me, solo per me, geni guitar, ovunque andrai, io ti dirò che t'amo, e già lo so, non ti potrò scordare. Scrivo il nome nel cielo di geni per amare così. Geni chitarre, suona per me, solo per me, geni chitarre. Ascoltando, vero? So che vi serve gente. Beh, io sono disponibile. Ma badate prima di accettare. Costo caro. Thank you.